Libri ribelli. Giocare col mondo facendolo a pezzi, bambini che uso e ha ridotto già vecchi. Libri ribelli. Gli invisibili. Di Nanni Balestrini, parte decima. Io ero svenuto. Poi la prima cosa che ho sentito è che c'era un compagno che mi ha preso e mi ha trascinato in fondo all'aria. In quel momento tutto era buio. Dentro questo cortile e c'erano ancora lì pochi compagni e mi ricordo che questo compagno che si reggeva in piedi, che evidentemente lui di botte ne aveva prese un po' meno durante il pestaggio delle guardie, che continuava ancora, sentivo le urla e i colpi, gli insulti delle guardie. Questo compagno mi ha portato alla fontana, c'era un rubinetto e mi ha bagnato un po' la faccia finché mi sono un po' ripreso. Allora mi ricordo che era tutto quanto dolorante, acciaccato dappertutto, però riuscivo a stare in piedi, a camminare, tutto quanto dolorante, ma riuscivo a camminare. Tutto questo continua, e io là fuori dal cancello, dalla rete, vedevo che continuavano a sfilare i compagni, continuava il massacro, continuavano a picchiare la gente. Io mi ricordo che lì dentro era buio, non si vedeva bene cosa c'era lì dentro, e mi trovavo. Però mi ricordo di aver visto un compagno che era seduto su questa panca di cemento che c'era lì, con le spalle appoggiate al muro, era immobile su questa panca e aveva una faccia che era completamente piena di sangue. La cosa che ho pensato era che a questo compagno qua gli avevano macellato la faccia. Non era più riconoscibile. Io l'ho riconosciuto per i vestiti. Non gli vedevi più la faccia. Era una maschera di sangue. Poi ho preso un fazzoletto e gli abbiamo asciugato un po' la faccia. La cosa atroce era questa qua. La cosa assurda era di dover assistere in maniera impotente a questo massacro che ti sfilava sotto gli occhi, proprio davanti agli occhi, dietro questa rete, e tu vedevi tutto quanto, lo spettacolo, tu vedevi questo spettacolo atroce, e la cosa atroce era che ti sentivi non soltanto impotente perché eri a pezzi, ma impotente due volte perché non solo non potevi fare niente per quello che stava succedendo, ma se tu accennavi anche soltanto a una reazione che poteva essere soltanto una reazione verbale, perché che cosa altro potevi fare? Questi sarebbero entrati e tu non eri nelle condizioni assolutamente di fare la minima resistenza dopo aver già preso tutte quelle botte e sarebbe stato soltanto peggio. Ora questa cosa ti abbatteva in maniera incredibile, ti abbatteva più delle botte perché non potevi che assistere impotente. L'istinto ti diceva di stare zitto, ma come si faceva a stare zitti davanti a questo spettacolo? E poi eri obbligato a vedere come questi picchiavano i compagni, e li picchiavano in maniera differente, perché non li picchiavano tutti nello stesso modo. C'erano alcuni compagni con i quali si sfogavano con maggiore rabbia, e erano ovviamente quei compagni che odiavano di più, perché con loro avevano avuto screzi, scazzi, minacce, eccetera. E poi perché c'erano quelli che, in base ai rapporti che c'erano dentro il carcere, loro pensavano che erano i capi, ma in generale le guardie erano assolutamente assatanate e decise veramente a ammazzarci tutti di botte. Si scatenava un odio incredibile. E la scena era rumorosa, c'era un rumore terribile, era rumorosa per i colpi che sentivi arrivare, era rumorosa per i lamenti, ma era rumorosa soprattutto per le urla di odio, insulti, carogna, bastardo. E quando arrivava un compagno che questi odiavano particolarmente, gli si buttavano addosso in tanti, urlando insulti, e giù colpi tremendi. C'era uno di questi compagni che era molto odiato dalle guardie, era alto 1,60 m scarsi. Questo compagno qua l'hanno proprio massacrato di botte, perché lo odiavano, e tu assistevi a questa scena impotente e pensavi: è impossibile che questo qua non muoia. Con tutti quei colpi che gli danno, era un pestaggio che durava troppo a lungo per essere soltanto un pestaggio. Picchiavano con manganelli, con bastoni, con spranghe di ferro. E questo compagno, che era piccolo, lo hanno proprio massacrato di botte. Poi un'altra scena che ho visto è stata uno che l'hanno preso per i capelli, dopo averlo pestato a terra. L'hanno tirato su per i capelli e l'hanno messo contro il muro. E poi uno con una spranga di ferro gliel'ha data sulla faccia, proprio così, un colpo con la spranga di ferro, così, di traverso sulla faccia, e gli hanno spaccato il naso e la fronte. Poi c'era stata un'altra scena orribile con un altro compagno che mentre stava per terra gli hanno dato una sprangata di ferro sulla bocca e gli hanno spaccato tutti i denti qua davanti. Queste erano le cose che si vedevano mentre stavamo lì al buio dietro la rete metallica impotenti. L'hanno costretto a mettere le mani sul muretto. Gli hanno preso le mani e gliele hanno tenute ferme lì sul muretto e gli hanno picchiato con le spranghe sulle mani. Gli hanno dato un sacco di sprangate sulle dita e gli hanno spaccato tutte le dita delle mani, qua, qua, qua e qua. Gli hanno spaccato le mani e poi le dita, qua, le dita qua e le dita qua. E questo compagno, ancora adesso, quando mangia, perde il cucchiaio e gli cade il cucchiaio di mano perché non riesce a tenerlo in mano. Qua, dopo, quando mangiava con il cucchiaio di plastica in carcere, gli cadeva sempre il cucchiaio perché non riusciva più a afferrare niente con le dita, non riusciva più a sentire la presa di niente e ha avuto le mani rotte per sempre. Si sono sfogate principalmente con quelli che gli avevano particolarmente rotto i coglioni. Questa foga, questo odio, questa cosa, loro ce l'avevano principalmente per tutte queste storie che erano successe prima nel carcere, che erano successe lì prima della rivolta, ma anche perché erano convinti che qualcuno di loro era morto, perché erano convinti che in tutto il casino che era successo durante la rivolta c'era scappato il morto, che avevano ucciso delle guardie. Le notizie che avevano avuto erano che c'erano state delle guardie ferite, però loro invece avevano capito che erano state ferite dai detenuti e che erano in pericolo di vita, mentre in realtà erano state ferite dai carabinieri con i colpi di mitra dei carabinieri. Quindi questi dicevano: voi avete accoltellato le guardie e adesso noi vi ammazziamo. La cosa che avevano in testa era di ucciderci per davvero, cioè di ucciderne qualcuno di noi con le loro mani e di fare un massacro con le loro mani. E la cosa assurda è che mentre i carabinieri sparavano e avevano sparato come dei pazzi, e io avevo pensato, mentre sentivo i colpi che sparavano, pensavo qua adesso ci ammazzano tutti. La cosa assurda è che invece qua adesso non erano i carabinieri, ma erano le guardie che ci uccidevano a botte, non i carabinieri quando sparavano coi mitra e buttavano le bombe. E adesso dietro la rete tu vedevi che stavano uccidendo qualcuno, veramente. Lo stavano uccidendo a botte, dicevi, porco Dio, quello là lo ammazzano, non lo smettono di picchiarlo. È giù per terra da quanti minuti e continuano a dargli su in 10, a dargli botte. Questo qua muore, è chiaro. Entravano alcuni che erano ridotti non so come, erano a pezzi, pieni di sangue. Tutti rotti, avevano le gambe rotte, avevano le braccia rotte, li vedevi che avevano le braccia rotte, le gambe rotte, urlavano lì, nella nostra area. Saremmo stati in 30, ci siamo contati alla fine, eravamo in 30, ma in piedi eravamo soltanto in 3, cioè in piedi voleva dire riuscire a stare soltanto in piedi, non a correre in giro, ma a riuscire a stare soltanto in piedi, senza cadere. Eravamo in 3. E era per puro caso che anche noi tre non eravamo ridotti come tutti gli altri, che erano lì stesi per terra. Gli altri erano tutti per terra, con le ossa rotte, proprio con le ossa rotte, con le gambe rotte, con le braccia rotte, con la faccia rotta e con la testa rotta, col sangue dappertutto. Mentre ascoltavo quella tirata minacciosa che il giudice Lince mi faceva, io cercavo disperatamente di concentrarmi su cosa dovevo fare. Pensavo che se quello che mi aveva raccontato era vero, allora Celso mi aveva voluto scagionare, dicendo che io gli avevo subaffittata la casa. Era una trappola, non vedevo come potevo venirne fuori. Era un vero casino e mi rendevo conto di come ero stato ingenuo a pensare fino a quel momento che avrei potuto spiegarmi con l'interrogatorio, che avrei potuto spiegare che non c'entravo un cazzo con quella storia e che loro avrebbero capito e mi avrebbero lasciato andare. Così mi sono messo il cuore in pace, tanto non mi mollavano più, qualsiasi cosa dicevo. L'interrogatorio era solo una cosa che serviva solo a fregarti ancora di più, e così era meglio smettere subito, perché comunque continuava, non avrebbe fatto che peggiorare le cose. Finito, Lynch ha aspettato un attimo, poi, visto che stavo zitto, ha pensato di continuare più distaccato e con un tono compiaciuto. Le devo dire ancora che ho raccolto anche la testimonianza del notaio Spinone, proprietario della casa da lei affittata, il quale afferma di avere subito da lei e da altri individui delle vere e proprie minacce, anche fisiche, per convincerlo a stipulare il contratto. Cos'ha da dirmi in proposito? Allora io, senza nemmeno pensarci su, mi è uscita fuori quasi da sola la frase: mi riservo di chiarire queste vicende nel prossimo interrogatorio. E così l'interrogatorio è finito. Non me ne fregava un cazzo se Lynch prendeva quella frase per un'ammissione. A quello che mi aveva detto non me ne fregava un cazzo, perché era chiaro che comunque lui era lì solo per mandarmi in galera in ogni modo. Lynch non ha avuto obiezioni, mi ha fatto leggere il verbale e me l'ha fatto firmare. Anche l'avvocato l'ha firmato. Ha detto buonasera a tutti e senza neanche darmi un'occhiata se n'è andato via precipitosamente. Intanto a quell'ora il carcere era già chiuso, non facevano più entrare nessuno a quell'ora. E allora Lynch ha detto ai poliziotti di portarmi giù nelle celle di sicurezza della questura. Io ho preso su da terra la mia borsetta con dentro lo spazzolino e le mutande, perché mi avevano tolto le manette, che evidentemente servivano solo per impedirmi di strangolare il giudice. Tutti se ne sono andati e mi hanno fatto rifare al contrario il percorso, giù per le scale, strette, ma arrivati al pian terreno abbiamo continuato a scendere sempre più giù. Scendiamo giù, lungo i muri umidi, illuminati da lampadine sporche, appese ai fili, elettrici sbrindellati. Arrivati in fondo mi hanno fatto entrare in una stanzetta piccolissima, uno sgabuzzino, dove c'era uno sbirro giovane con la pistola nella fondina, sotto l'ascella, e questo mi ha preso le impronte di tutte le dita delle mani, prima una mano, poi l'altra mano. Me le schiacciava su un grande tampone d'inchiostro nero e poi l'appoggiava sulla pagina di un registro. Poi sotto c'è scritto le mie generalità. Aveva l'aria molto sfigata, si capiva che non gli piaceva per niente quel lavoro. Mi ha allungato uno straccio sporchissimo per pulirmi le mani, ma non c'era niente da fare, non veniva via niente. E dopo un po' che insistevo, ho rinunciato e mi sono tenuto le mani nere. Mi sono ripreso la mia borsetta, tenendola tra le punta di due dita. Siamo usciti di lì e abbiamo fatto un pezzo di corridoio con continue svolte. Poi uno degli sbirri che mi accompagnava bussa a una grande porta di legno, tutta tarlata con la vernice scrostata. Nessuno viene ad aprire. Allora questo bussa più forte e chiama a voce alta: «Agente!» La porta si apre e appare un omaccione con una barbaccia nera come l'inchiostro, una bocca larga come un forno e due occhi rossi che aveva in mano un grande mazzo di chiavi con cui richiude rumorosamente il portone alle mie spalle e mi ritrovo in uno stanzone fiocamente illuminato, una lampadina che pende al centro. Senza finestre, il pavimento e le pareti sporchissime, le pareti tutte scrostate dall'umidità. L'omaccione ci fa entrare e ci dirigiamo verso un lungo tavolo che sta contro il muro. Quello bestemmia incazzato contro non so cosa. Da un corridoio arriva un vociare confuso, mescolato a lamenti e grida. A un certo punto un urlo più forte e l'omaccione si precipita, bestemmiando, furioso, e dicendo frasi sconnesse in un dialetto meridionale che non capisco. Verso il corridoio, dove c'è una fila di pesanti porte grigie, apre uno spioncino dopo l'altro, urlando minacce e sbattendoli poi violentemente, poi torna al tavolo e urla ai due che mi accompagnano, e questo qui, indicandomi col mazzo di chiavi, quelli gli spiegano che devo passare la notte lì, L'omaccione li riaccompagna alla porta, apre e richiude, poi si riattacca il mazzo di chiavi a un gancio che ha sulla cintura e torna verso di me, che sono rimasto lì con la mia borsetta tra due dita. Mi strappa la borsa di mano e la butta sul tavolo, poi mi grida minaccioso di spogliarmi. Io non ci provo neanche a dirgli che mi hanno già perquisito, perché mi sembra di leggergli in faccia che quello aspetta solo un mezzo pretesto per darmi una passata. Ha la faccia tutta sudata e l'uniforme sudicia, bisunta, con grandi macchie scure dappertutto. E così si ripete tutta la storia della perquisizione, ma questa volta con più violenza, perché mi sembra che quello voglia strappare i miei indumenti dalla foca con cui li maneggia. Sempre bestemmiando incazzatissimo, roteando gli occhi rossi, alla fine mi fa girare due o tre volte lì nudo, mi passa le sue manacce lerce due o tre volte tra i capelli, che avevo piuttosto lunghi, e finalmente mi dice di prendere la mia roba, i vestiti, la borsa e la roba che c'era dentro tutto sparpagliato sul tavolo e di seguirlo. Non capisco se prima devo rivestirmi, ma non glielo chiedo. Quello ha ripreso a urlare, a bestemmiare. Mi accorgo adesso che in quello stanzone fumoso c'erano altri tre tipi simili a lui, evidentemente suoi subalterni. E lui gli grida delle cose con la sua bocca larga come un forno. E allora, così nudo, prendo tutta la mia roba sotto braccio e lo seguo nel corridoio, davanti alla fila di porte grigie da dove vengono sempre grida e lamenti. Lui apre una porta e mi spinge dentro nel buio, con una gran manata sulla schiena che quasi mi butta per terra. Poi sbatte la porta con fracasso, sento un gran freddo e di colpo penso che lì può esserci anche qualcun altro che io non posso vedere, ma che mi ha visto quando la porta si è aperta. Ho brividi per il freddo, ma anche per la paura, pensando che qualcuno mi può saltare addosso da un momento all'altro, qualcuno orribile, mostruoso, perché lì qualcuno non può che essere orribile. Resto lì per qualche secondo, paralizzato. Il fatto che sono nudo mi dà come la sensazione, l'impossibilità di potermi difendere. Resto lì, immobile, a aspettare che il mostro mi salti addosso, incapace di muovere un dito. La cosa mi sembra inevitabile, finché sento di nuovo le bestemmie che si avvicinano e di colpo lo spioncino si apre. Vedo controluce la sagoma della sua testa e un fascio di luce fioca illumina per un momento il fondo della cella e vedo che è vuota. Sul fondo c'è solo una specie di rialzo di cemento. Nel buio annaspo, ci salgo sopra, finché con le mani arrivo a toccare la parete di fondo, che è umida e fredda. Con un po' di pazienza riesco a rivestirmi, arrotolo il giubbotto e poi mi stendo sul cemento e ci appoggio la testa sopra. Chiudo gli occhi, le orecchie mi si riempiono del vociare indistinto che viene dalle altre celle. I lamenti, le grida, le bestemmie. Provo a tapparmi le orecchie, ma è inutile. Ma sono stanchissimo, sono esausto, mi fanno male i muscoli delle gambe, come se avessi corso tutta la giornata e mi addormento di colpo, ma non è un sonno continuo. Ogni tanto mi svegliavo, le urla e per lo sbattere delle porte e poi ripiombavo nel sonno. E poi di nuovo mi svegliavo. A un certo punto ho sentito una voce di donna che cantava a voce altissima. Tutti la notte dormono, ma io non dormo mai. Era ubriaca. Poi, quando l'hanno fatta smettere, si è messa a piangere ancora più forte. Mi addormentavo e mi svegliavo in continuazione. E così è passata tutta la notte. Capito che era mattina quando il mangiafuoco mi ha riaperto la cella e mi ha ordinato nel suo dialetto incomprensibile di venire fuori in fretta. Era ancora più sporco, più unto e sudato e si grattava con tutte e due le mani il barbone nero. Mi ha fatto venire fino al tavolo, contro il muro, dove mi ha restituito la borsetta e mi ha consegnato a tre nuovi poliziotti che erano lì per prendermi, due giovani e uno più anziano, in civile, con la camicia bianca e cravatta, appena rasati, i capelli lucidi, con tutti e tre lo stesso odore di dopobarba. Mi hanno messo le manette dietro la schiena. Uno ha preso la mia borsetta dopo averci guardato dentro e averci frugato un po' con le dita. Siamo risaliti su per le scale e arrivati al pian terreno, la luce del sole mi ha fatto chiudere gli occhi. Libri ribelli. Giocare col mondo facendolo a pezzi, bambini che il sole ha ridotto già vecchi. Libri ribelli.